Mary Parker took an axe. She gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 40 guns. La danza e la notte non sai cosa ti aspetta. L'odore impresso sulla maglietta. Guardi l'ora e pensi, tenti di capire quali atteggiamenti dovresti evitare, dovresti cambiare. Scrivere ti può aiutare, è un ciclo inevitabile. Flessibile, labile, la mente malleabile. Abile, nel confondersi si insinua nei pensieri e ti ritrovi a come stavi ieri. Ma l'ora non cambia, la tua testa scivola stanca verso la tastiera, lampeggia il verde della luce e ti ritrovi ancora un'altra sera. Passata rivolta, sì, lo stomaco logico intreccio di sensazioni da diventare ironico. E un altro emoticon che mi mando tanto. Ogni cosa che sbaglio non la cambio. Salto da un punto all'altro come Green Fandango. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. A notte porta consiglio, questo si sa. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. È difficile cambiare alla mia età. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. A notte porta consiglio, questo si sa. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. È difficile cambiare alla mia età. Occhio sbircia l'ora, ancora una volta la mia bocca assapora veleno. È passato un minuto e a breve tremo. Si avvicina minaccioso lo sclero. Ero solo senza difesa ma ne ero a conoscenza. Ho trovato uno scudo coscienza, sentenza. Scanditi dal tocco del martello, il mio fratello. Sempre quello mi segna, mi lacerata. Città mi accompagna come compagna. Mano nella mano, questa canaglia. Chiodi nelle mani, catene ai miei piedi. Solo ferraglia, il tempo che mi scorre a ritroso. E gioco con la sorte in modo pericoloso. Non oso pensare a quello che possa succedere. Io l'ho visto, no, non ci voglio credere. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. A notte porta consiglio, questo si sa. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. È difficile cambiare alla mia età. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. A notte porta consiglio, questo si sa. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. È difficile cambiare alla mia età. Sono le 3, minuti 33, in me scatta qualcosa che mi confonde. Nel mio io più profondo mi morde. Suona un violino antico ma privo di corde. Orde di piccoli aghi toccano i sensi. Il giorno fai cazzate e la notte ci ripensi. La lancetta grande sovrasta la più piccola. Il peso degli errori che ti schiaccia sei la vittima. E Dio che ti parla ogni segno è un invito a metterci impegno. Meglio darmi retta, accetta quel che vedi. E vedi oltre i tuoi limiti. Sulla mia pelle segni come lividi. Cinici minimi, incontri intimi. Squallidi scambi di sguardi avidi. Dividono chi sono. Non sono solo loro che lo rovinano. Sono io che se non mi fermo poi l'amplifico. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. A notte porta consiglio, questo si sa. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. È difficile cambiare alla mia età. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. A notte porta consiglio, questo si sa. Batte la lancetta, l'orologio fa tic tac. È difficile cambiare alla mia età.